Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Il bilancio finale dell'allegra serata genovese è di 8 tifosi serbi arrestati e 47 denunciati a piede libero. Lo ha comunicato stamane la questura di Genova. A conclusione delle indagini, in totale il numero di tifosi segnalati a piede libero è diventato di 45, il numero sale a 47 se si contano anche le denunce di Ivan Bogdanove, cioè il capo della tifoseria, e di un altro serbo arrestati con altre accuse. La questura intanto ha provveduto all'espulsione dal territorio nazionale di 35 tifosi serbi che hanno preso parte agli scontri. Qualche riflessione accessoria. Beh, intanto le vostre, alcune delle innumerevoli mail giunte in questi due giorni che non hanno trovato spazio ieri, ne ho selezionate tre di taglio diverso. Una è firmata Enrico Zacco ed è la seguente. Di ritorno allo stadio dopo un periodo piuttosto lungo, mi ero fatto convincere da un fornitore che ci aveva offerto un paio di biglietti. Abbiamo sfruttato l'occasione io e il mio collega e abbiamo provato a vedere la nostra Italia. Senza soffermarmi su tutto quel che è già stato detto, volevo far notare come abbiamo potuto bellamente entrare nel settore distinti senza alcun controllo e con due biglietti intestati a una certa Daniela qualcosa e Marta qualcos'altro. Beh, i controlli ai tifosi serbi hanno decisamente fatto il paio con il nostro. Ne riparleremo tra altri 20 anni. Poi c'è Roberto Pachieri che da Chiusi ha scritto: ero a cena con la mia famiglia, ho acceso la TV, volevo vedere la partita, volume basso all'inizio perché doveva ancora cominciare. Poi vedo che la partita non inizia, vedo vetrate spaccate, qualcuno che infierisce, mia figlia di 5 anni alza gli occhi, guarda la TV e chiede: papà, ma perché i vetri sono rotti? Rispondo che ci sono dei signori maleducati che li hanno rotti. E allora lei, perplessa, mi chiede: ma perché allora sono andati alla partita? Non ho risposto, ho preso il telecomando e ho messo i cartoni animati. Roberto Pacchieri da Chiusi. Chiude Tiziano Pizzi da Verbania, che si fa una domanda provocatoria, ma secondo me fino ad un certo punto. E dice: ma perché non assegnare il 3-0 alla Serbia? In fin dei conti dovrebbe valere, a mio giudizio, il principio della responsabilità oggettiva. Nel senso che chi organizza un evento è responsabile della sua sicurezza, punto. Altrimenti ci troveremo sempre ad assistere ai soliti scambi di responsabilità con il concreto risultato di non risolvere nulla. È evidentemente una tesi un tantinello estremizzata, non c'è dubbio, ma che secondo me non è poi così campata in aria. D'altra parte il palleggio continua. Leggo dalle due ultime agenzie appena uscite che il sottosegretario agli interni con delega allo sport, Rocco Crimi, ha dichiarato: cosa penso degli scontri di Genova? Che le misure che si stanno adottando nel nostro paese, come il DASPO e la tessera del tifoso, dovrebbero essere allargate dall'UEFA anche a livello europeo. Questo in risposta alle critiche dell'UEFA, quindi una rivendicazione del sottosegretario di Stato alla rivendicazione del buon operare delle nostre forze dell'ordine e comunque dell'organizzazione dello Stato. Arriva a distanza di 2 minuti una risposta indiretta, evidentemente, di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che dice testualmente: a Genova è mancato lo Stato, è lo Stato che deve dare le condizioni di sicurezza al cittadino ed è gravissimo che questo non sia accaduto. Aggiungo nel frattempo che di Genova a ferro a fuoco è passata, non se ne parla più, è già passata nel dimenticatoio come una banale routine. Il guaio è che è davvero una routine banale, nel senso che le scorribande ultra per città autogrill ormai, come sappiamo, fanno parte dell'arredo urbano di qualsiasi sabato o domenica calcistica. Sentirei un contributo, una voce che arriva da fuori e poi vi leggerei un delizioso commento apparso stamane su Repubblica, firma Antonio Di Pollina. Sentirei che cosa il punto di vista di Zanetti, Xavier Zanetti, che tra l'altro è la vigilia del rientro con la maglia nerazzurra, il commento di Zanetti a Italia-Serbia. Credo che dispiace al mondo del calcio in assoluto. Purtroppo è capitato in una partita importante, grazie a un gruppo di tifosi non si è potuta giocare questa partita e speriamo che queste cose in futuro non capitino più. No, non ho sentito Adecchi, l'ho sentito prima della partita, però dopo non l'ho sentito. Loro sono venuti qui a disputare una partita molto importante per loro e sono andati a casa non giocandola e credo rischiando tantissimo. Più tardi ci sarà spazio anche per una dichiarazione del presidente federale Abete in risposta a Blatter, ma lì aspetto che Insomma, aspetto la compagnia di un ospite che sta per intervenire, perché sinceramente da solo temo di non potercela fare. La rubrica Canal Grande di Antonio Di Pollina stamane su Repubblica, a proposito del commento televisivo dell'altra sera. Uno si prende sul serio a livelli mai visti in natura, con Lovati. L'altro doveva avere un impegno in serata e chiedeva di andare tutti a casa già alle 8, Dossena. Ma Zocchi cavalcava come fosse un'avventura e incappava nello sfondone, scambiando il simbolo degli ultranazionalisti con l'ipotesi che i giocatori indicassero il rischio del 3-0. Bene, ma l'alternativa qual era? Forse internet, dove si leggeva di tutto, tipo gli ultra che ci stavano punendo per l'intervento in Kosovo e già che c'erano hanno cercato di uccidere il loro portiere, alla possibilità che quell'orso tatuato avesse litigato con la fidanzata. Morale, nessuno ci capiva e sapeva dire nulla, nessuno ci sarebbe riuscito decentemente. I bersagli Rai sono quelli più in evidenza e li pagano per quello. Ma intanto la TV faceva un altro passetto avanti. Se a Genova, al posto degli spettatori, ci fossero state le foto come a Trieste, la partita si sarebbe giocata regolarmente e prima o poi ci si arriva e nessuno sbaglierà più il commento. Primo intervallo di oggi, strade e autostrade. Ma perché i serbi ce l'avevano col loro portiere? Domanda Andrea da Milano. Beh, insomma, a parte che ormai queste problematiche sono superate, ce l'aveva con il loro portiere un po' perché ha fatto una papera nella partita persa in casa con l'Estonia la sera di venerdì, ma soprattutto perché la grave colpa di Stojkovic è stata quella di aver giocato nella Stella Rossa, essere andato in Inghilterra a Wigan e poi essere tornato al Partizan, cioè dai rivali storici della Stella Rossa. E questo per chi cavalca a quella maniera, come abbiamo visto, con l'ultranazionalismo, il senso di appartenenza, capite bene che è un'offesa che va lavata, appunto, non dico col sangue, ma il sangue ci è arrivato molto vicino con quell'aggressione al portiere, per l'appunto. Dario dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie signor Garanzini. Dica. Una sua opinione, lei ha anticipato prima appunto la risposta di Abeti, l'ho sentita oggi in televisione. Mi sembra che si stia, a mio modesto parere, entrando nel ridicolo. È colpa tua, è colpa mia, Blatter che dice l'Italia deve far così e questo che risponde però tu mi hai mandato l'arbitro sbagliato. Non sarebbe ora di fare le persone serie e affrontare l'argomento hooligans o delinquenza in un modo serio e ragionevole, di mettere le cose a posto una volta per tutte? Grazie e l'ascolto. Grazie a lei, Dario. Allora lei mi costringe ad anticipare questo simpatico scambio di battute. Ci torniamo dopo con Adalberto Bortolotti, che ormai è quasi in lista d'attesa. Dunque, ieri Blatter, a commento a chiosa di quanto accaduto l'altra sera, ha detto, tra l'altro, ma praticamente ha detto quello: in Inghilterra non sarebbe mai accaduto perché là gli hooligans sanno come trattarli. Ora, che Blatter non abbia alcuna simpatia per l'Italia è abbastanza noto. Che in questa frase ci fosse intanto un eccellente fondo di verità e che fosse una chiosa ammissibile dopo quello che è accaduto e che è stato visto in tutto il mondo, mi pare altrettanto banale da osservare, sicché non mi è sembrato un attacco frontale. Allora Abete stamane ha risposto quanto segue: da Blatter ci attendevamo prima una riflessione sulla qualità della persona che ha diretto una partita dell'Italia al Mondiale 2002, e cioè Byron Moreno. Sarebbe stato più opportuno, visto che ha determinato un trauma non leggero. L'opinione pubblica e la federazione avrebbero gradito una riflessione sulle qualità morali di quell'arbitro. Ora, per carità, io non voglio mancare di rispetto a un presidente di federazione, però sinceramente una risposta del genere ci riporta grosso modo alla terza, quarta elementare, con possibilità di scendere anche verso la prima o la seconda, anche perché Blatter si occupa di attualità, evidentemente, e non di... E non di pregresso, una risposta spaventosamente avvilente proprio. Domenico dalla provincia di Frosinone. Beh, Domenico dalla provincia di Frosinone, lei è il celeberrimo pastore che ogni tanto interviene. Sì, Garanzini, grazie per avermi chiamato. Domenico, precisiamo, perché sennò qua sembra che noi usiamo il caratterista ogni tanto. È lei che ha chiamato e noi l'abbiamo richiamata, è vero? Grazie. Senta, Garanzini, io è un piacere sentirla. Io sono tornato da qualche giorno dai miei monti, diciamo, e sono disceso, e su in montagna non si prende la linea, poi so che voi andate in ferie. Cioè adesso vi ho richiamato perché mi piace ascoltarvi e passerò l'inverno con voi, diciamo, stanno nascendo gli agnellini, su faceva freddo. Questo, grazie per la compagnia e gli auguro buona stagione. Tutto qua. Grazie Garanzini. Ma Domenico, grazie a lei. Mi raccomando le pecore e le capre, perché a questo punto sono un po' adottate da tutte noi, da tutti noi di Radio 24. No? Ci sentiamo così vicini a lei e a queste sue chiamate estemporanee che ogni tanto arrivano, che davvero il suo gregge ci è diventato caro quanto immagino lo sia a lei. Meno male che è sceso oggi domenica e si è perso Italia-Serbia. Un'altra voce da ascoltare, il tempo necessario per collegarci appunto con l'ospite di oggi, con cui tornare su alcuni temi di questo martedì, ma soprattutto proiettarci sulla domenica calcistica e sul ritorno del campionato. La voce da ascoltare potrebbe essere quella dell'avvocato Grassani, che cerca di individuare le possibili sanzioni che l'UEFA potrebbe adottare anche nei confronti della nostra federazione. È ovvio che il referto del delegato UEFA sarà il documento che sarà legge ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni anche alla nostra federazione. Mi sento comunque di poter escludere qualunque tipo di sanzione a carico della FIGC che riguardi la regolarità di questa gara, punti di penalizzazione o meno che mai perdita della gara a tavolino. Quello che non è da escludere, se nel referto del delegato UEFA ci saranno comunque degli accertamenti di responsabilità per omessa vigilanza o carenze nella preparazione della partita da un punto di vista della sicurezza, potrebbe esserci una sanzione pecuniaria, quindi un'ammenda. E questo è un parere legale in piena regola. Sto vedendo gli arbitri delle partite di domenica e sto vedendo tra le curiosità, anzi la principale curiosità, che Cagliari-Inter, anticipo domenicale delle 12.30, sarà diretta da Tagliavento di Terni, e questa mi sembra una notizia, perché Tagliavento non dirigeva l'Inter, se non sbaglio, da Inter-Sampdoria, e quindi erano forti i sospetti, visto che nel frattempo qualche partita di cartello l'Inter l'ha giocata già anche nella stagione in corsa, insomma si erano fatti strare i sospetti che fosse tornato a galla l'istituto della cosiddetta ricusazione. È bastato scriverlo, per la verità, su qualche quotidiano, oppure magari affacciare l'ipotesi in qualche rubrica, e Tagliavento, che oggi è il miglior arbitro italiano, tornerà domenica ad allenare l'Inter. Bentornato a Tagliavento, ma bentornato soprattutto da Alberto Bortolotti. Ciao Gigi e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Senti, mi interessa la sensazione che innanzitutto, poi parliamo d'altro, che un grande saggio e non più giovanissimo giornalista ha provato l'altra sera davanti alla TV, e cioè non so, tra incredulità, avvilimento, vergogna, che cosa ha prevalso in te di fronte all'incalzare di quelle immagini? Ma a me ha colpito il senso di impotenza in cui è ridotto il nostro calcio, purtroppo non soltanto il nostro calcio, ormai in balia di tutto. Cioè, non era un assalto di un comando agguerritissimo quello, tutto sommato, però è bastato per mettere in crisi prima una città e poi uno stadio, far saltare una partita, e con la polizia costretta ad ammirare l'esibizione di un balordo molto grande e grosso, ma tutto sommato per dirla con Mourinho abbastanza pirla, certo. E non potersi far nulla, poi alla fine dire per fortuna che è andata bene. Ecco, questo mi sembra un punto di abbassamento nella quotazione del nostro sport difficilmente superabile. Per questo dei vocaboli che tu hai usato prima, se gli erai avvilimento, ecco. Perché si ha l'idea che non ci sia nulla da fare. Io non credo che sia vero, però se siamo a questo punto, forse è purtroppo così. Vediamo se per qualcosa di infinitamente meno grave, per carità, ma di molto significativo purtroppo, provi la stessa sensazione di avvilimento. Io l'ho provato, ne ho appena parlato con un ascoltatore. Tu sai che ieri Blatter, come è noto, non ha mai nascosto le sue scarse simpatie per l'Italia. È un nostro grande amico, sì. E il nostro calcio, certo. Beh, insomma, ieri si è limitato a dire che in Inghilterra gli hooligans avrebbero saputo ben diversamente come trattarli, e non mi è sembrata un attacco polemico al calcio italiano. La risposta di Abete stamane, che ripeto e che ti leggo, è: da Blatter ci saremmo attesi prima una riflessione sulla qualità della persona che ha diretto una partita dell'Italia al Mondiale 2002. Sarebbe stato più opportuno, visto che ha determinato un trauma non leggero, eccetera, eccetera. L'opinione pubblica e la federazione avrebbero gradito una riflessione sulle qualità morali di quell'arbitro. Io ho parlato di terza, quarta elementare. Tu su che classe sei? Da prima dicevamo avvilimento, l'iniziale di Abete è la stessa, cioè la connessione. Io leggevo oggi un'intervista di Tardelli, ad esempio, sì, su Repubblica. E stavo per citarti, tra l'altro. È proprio il concetto di questo, cioè cosa deve fare di male uno per rimanere ugualmente al proprio posto? Perché, non so, tanto in basso non eravamo caduti mai a tutti i livelli, ecco. Certo. Organizzativo, tecnico, di comportamento, di stima all'estero, eccetera. Però mi pare che sia in auge, evidentemente va bene così. Ecco. No, riguardo al fatto di replicare Wagner tirando fuori la storia di Moreno, mi sembra che siamo in questo momento proprio una più peregrina delle trovate. Ecco. Sì, direi proprio di sì. La frase di Tardelli, la risposta di Tardelli alla domanda "forse dovrebbe esserci qualcun altro alla guida del calcio italiano", cioè questa è stata una sua prima affermazione: "forse dovrebbe esserci qualcun altro alla guida del calcio italiano", domanda, sta parlando di Abete. Contro risposta: "io dico quello che penso, non parlo di nessuno, ma basta guardarsi intorno per capire. Abbiamo fallito al Mondiale in Sudafrica e con l'Under 19 che non farà nemmeno i Mondiali Under 20 dell'anno prossimo. Poi abbiamo perso la possibilità di ospitare gli Europei 2016 che si faranno in Francia. Ora l'Under 21 fallisce l'accesso alla fase finale degli Europei e, cosa ancora più grave, non andrà alle Olimpiadi di Londra nel 2012. In più a Genova abbiamo permesso dei teppisti di portare dentro lo stadio fumogeni e cesoie. Credo che per il calcio italiano sia arrivato il momento di fare una riflessione profonda". Fino a qui Tardelli. La riflessione profonda che Abete sta facendo in questi momenti è di suggerire a Blatter di pensare a Byron Moreno. Direi che siamo combinati abbastanza bene. Ad Alberto, 8 anni fa, insomma. Sì, sì, è per l'attualità stringente il nostro presidente, il nostro presidente federale. Siamo arrivati all'intervallo di metà programma. Ascoltiamo le notizie che arrivano dalla borsa e dai mercati in generale e poi torniamo su Under 21 e soprattutto campionato. Beh, scrive un ascoltatore davvero spiritoso che Andrea da Empoli dice: "ma perché non organizziamo una raccolta di firme per rafforzare la posizione di Abete, le mandiamo a Blatter e protestiamo una volta per tutte sull'arbitraggio di Heston Italia-Cile del 62, non è male, no Adalberto? Diciamo la verità che non è male. Adesso stringiamo i tempi perché abbiamo 9 minuti prima del prossimo intervallo e non vorrei infliggerti un'altra valanga di pubblicità. Dunque, ripartiamo dall'Under 21. È stato anche questo un fallimento. Allora, ci si domanda, per continuare il discorso su Abete e sulla FIGC, se anche nella FIGC ormai non prevaga la logica del club, della società normale, per cui colpa del presidente e della società mai, colpa dell'allenatore sempre. Sì. Ma in effetti sì, e anche in questo sono d'accordo con quanto sosteneva Tardelli in quel testo. La sostituzione di Gentile a me era parsa tutto sommato abbastanza gratuita, nel senso che aveva fatto bene sia sul piano dei risultati sia sul piano del gioco. Poi magari con l'Under ci aveva abituato benissimo in passato, però in passato utilizzava giocatori che giocavano. Da un po' di tempo in qua deve prendere giocatori che vedono il campo rarissimamente, tranne qualche eccezione. E in effetti in questo crack contro nel return match con la Bielorussia, io credo, per quel poco che ho visto di questa squadra, che però ho seguito nelle ultime due partite, sia stata decisiva l'assenza di una linea di destra, che era De Silvestri, se non sbaglio, e soprattutto Schelotto del Cesena, che giocano sempre, sono o quasi sempre, comunque Schelotto sempre, titolari di Serie A, e che davano un notevole apporto alla squadra, Schelotto con questo dinamismo forsennato e anche lucido. E mentre ci sono molti giocatori che io confesso, alcuni li vedo lì e mi chiedo: ma questo dove gioca? Poi dove gioca è una domanda impropria, a che società appartiene, perché non gioca poi mai. Il portiere addirittura fa il terzo portiere in Inghilterra, che vuol dire che potrebbe anche non aver visto una partita vera da tempi immemorabili, ecco. Credo che il problema sia generale, cioè noi abbiamo continuamente questa, il nostro calcio ha continuamente questa diffidenza verso i giovani. Poi è chiaro, se compare Pelé se ne accorgono tutti e il posto lo trova, però sui valori medi la vocazione a rischiare dei nostri tecnici e anche dei nostri operatori di mercato è minima. Io vedo che l'Inter è costretta a fare giocare Coutinho e ne paga secondo me un prezzo, perché avesse avuto ancora Balotelli credo si sarebbe trovata meglio, però io credo che se Coutinho fosse un ragazzino italiano a nessuno sarebbe venuto in mente di mandarlo in campo per un così alto minutaggio, ecco. Quindi paga anche questo, paga al di là di tutto, credo che le generazioni non sono tutte uguali e questa è probabilmente una generazione non troppo fertile di talenti. Con tutto questo ha buttato via una qualificazione che dopo l'andata era in cassaforte. Era scritta, insomma. Era scritta, sembra... e l'ha buttata via con una follia individuale alla base di tutto, perché da quell'1-0 che ha ridato fiato a una Bielorussia che credo si sperasse il giusto nel ribaltare la situazione, ecco, quello è stato assolutamente determinante. Riparte il campionato e mi pare che questa vigilia d'attesa sia segnata un po' dalla convinzione che si sta rafforzando che questo potrebbe davvero essere il non anno dell'Inter, nel senso che qualche outsider in giro c'è, e il Milan evidentemente qualcosa più di un outsider, forse è un outsider la stessa Juve quest'anno, ma insomma ce ne sono altre. L'Inter, mi faceva notare Franco Piantanide stamane, è arrivato al 21esimo infortunio di stagione, di cui 14 muscolari. Ora, ricorda la Juventus dell'altro anno da questo punto di vista, con i numeri? Sì, i numeri lo ricordano, secondo me le cause sono probabilmente diverse, cioè la Juventus dell'anno scorso non è che pagasse un'impresa clamorosa e quindi che aveva richiesto un logorio fisico atletico eccezionale. Sì. L'Inter viene da una stagione in cui è stata spremuta come un limone, perché vincere 3 titoli con un moderatissimo turnover ha portato probabilmente questa squadra al limite dell'usura. Io credo che lo scaltro Mourinho se ne fosse un po' accorto, ecco, perché preparandosi una trionfale uscita di scena. Mi pare che l'Inter, appunto, lo scorso anno abbia i suoi giocatori più rappresentativi, che poi sono anche impegnati ovviamente nelle coppe e nelle rispettive nazionali, abbiano disputato un numero di partite che rende abbastanza comprensibile questa epidemia di infortuni muscolari. E a questo poi alcuni giocatori, oltre che all'infortunio o prima dell'infortunio, cito il caso di Milito, hanno concesso uno scadimento atletico impressionante sul piano del rendimento. Quindi tutto sommato io credo che l'Inter sin qui abbia fatto il massimo, quasi trovarsi certo seconda in classifica alla pari del Milan davanti alla Juventus rispetto alle avversarie designate, non parliamo della Roma, però che la sua stagione sia piena di ostacoli, anche perché stranamente questa situazione è coincisa con il primo anno, io credo, in cui la società si è mossa pochissimo sul mercato, se non per vendere, ha fatto poco e nulla, certo. Se non in uscita, esatto. Allora, io chiuderei con una doppia domanda, che è: da un lato, quali sono queste outsider più accreditate che possono, perlomeno da qui a Natale, no, provare a competere al vertice in maniera discretamente in attesa? Una. L'altra è se, sempre da qui a Natale, in attesa poi di tirare un bilancio parziale di quasi metà stagione, possiamo aspettarci ancora qualche sorpresa, tipo il Chievo dell'inizio, piuttosto che il Cesena, piuttosto che il Brescia, oppure se tutto, secondo te, è destinato con l'autunno a normalizzarsi? Dunque, guarda, io ad esempio, esaminando il campionato nella sua vigilia, non attribuivo un ruolo da protagonista al Milan, che però ha poi avuto un'accelerazione sul mercato da invece accreditarlo sicuramente di chance primarie, sì. Quindi il Milan è una squadra che può dar fastidio, può abbattere, può superare l'Inter tranquillamente, anche perché mi pare che Allegri tutto sommato stia lavorando bene fra l'incudine delle pressioni padronali che vorrebbero giocare con 7 punte e il buon senso che lo porta a trovare qualche soluzione tattica più ragionevole. Sì. La Juventus è una squadra che è partita malissimo, ma che ha delle potenzialità, e io credo che se l'ambiente non farà con Del Neri l'errore che ha fatto con Ranieri, cioè di pretendere tutto e subito e di giudicare ad esempio un secondo posto, un'onta incancellabile, potrà fare strada. Mi sembra una squadra in progresso, tutto sommato, e poi questo Krasic è meglio di quanto io credessi, perché almeno in questo, certo, in questo suo inizio. Ma mi pare che la grande novità siano nella cosiddetta seconda fascia. Sì. Io guarda, presentando appunto per il Guerino, avevo azzeccato una previsione in parte, diciamo, cioè io scrivevo, non è elegante autocitarsi, ma giusto per far presente come mi sembrava il panorama, che ci sarebbe stato a mio avviso un ribaltamento, di un avvicendamento di valori nella seconda fascia. Vedevo in flessione rispetto alla stagione scorsa Sampdoria e Fiorentina, perché erano società che o non si erano rinforzate o si erano indebolite, sì, e in netta crescita Napoli, Palermo e Lazio. Beh. Questo sin qui si è verificato, però la Lazio non la ritenevo in grado di non proprio che poi così ha fatto, almeno sin qui, cioè ha superato le mie anche lusinghiere previsioni. Devo dire che la Lazio in teoria ha chiuso il mercato in attivo, io credo, perché la cessione capolavoro di Kolarov, perché vendere Kolarov per 20 milioni io credo basti per beatificare Lotito. Mancini è rimasto un amico, probabilmente. Cioè, ha fatto il regalo di Natale, di Pasqua, è un amico. Di Ferragosto. Ecco. Sì. Però oltre a questo ha azzeccato l'acquisto di questo giocatore fantastico per me, di Hernanes, che si è ambientato al volo ed è determinante. Certo. Poi, dopodiché, Reia è un eccellente gestore di giocatori, e io credo che la Lazio possa sino in fondo non tenere il primo posto, perché tu dicevi giustamente l'autunno e l'autunno aggiustano poi tante cose, però può aspirare a un posto Champions, ecco, secondo me, perché fin qui è una squadra con pochissimi punti deboli. Questo è. Sono entusiasta del portiere, ma forse mi sbaglio, a volte è bravo, insomma, però per il resto vedo una squadra molto solida e con giocatori che fin qui regalati come zarate, ma che solo se ritrovano un briciolo di voglia o di talento ce l'hanno. Talento ne anda a vendere. Possono dare un bel cambio. Cioè, la batteria di punte della Lazio è assolutamente di prima qualità, insomma, superiore a quella dell'Inter, se non altro per numero di alternative, ecco. Adalberto, grazie. Chiudiamo qui per oggi. Grazie di questa di questo sguardo, no? Che ci riporta dopo le brutture di settimana, ci riporta un po' avanti al campionato. Tra poco vi ricorderò le partite in programma tra sabato e domenica, ci saranno ancora due o tre vostri interventi. Sentiamo come va sulle strade. Il ripasso della data è quindi 14 ottobre, Nicola Filippone. Sembra ieri. 14 ottobre 1964. L'unica avventura del Bologna in Coppa dei Campioni si chiude in maniera molto sfortunata al primo turno contro l'Anderlecht. Dopo aver perso per 1-0 in Belgio, gli emiliani si erano imposti in casa per 2-1 con reti di Pascutti e Nielsen. Nello spareggio di Barcellona, le due squadre non riescono a sbloccare la gara né nei 90 minuti regolamentari né nei 30 supplementari. Il regolamento prevede il ricorso al sorteggio. Sarà quindi la monetina a decretare l'eliminazione della formazione allenata da Bernardini dalla massima competizione continentale per club. Non l'ha ascoltato, o perlomeno non l'ha ascoltata di presenza, poi magari la radio gli è rimasta accesa. Roberto da Arezzo fa notare proprio a Bortolotti che il Milan prima o poi dovrà anche incontrare Juventus, Inter, Roma, Palermo, Napoli, perché per ora, oltre a due neopromosse, ha incontrato abbastanza poco. L'Inter già qualcosa di più, questo fa notare, vi ripeto, un ascoltatore di nome Roberto. Qualcuno mi chiede di fare i complimenti al Novara, si firma Marco. Beh, potremmo anche ascoltare un contributo che arriva da Novara, e che è curioso. Novara è certamente la squadra rivelazione della B, abbiamo ascoltato Tesser l'altro giorno, il racconto dell'impresa di Porto Gruaro, ieri sera ne ha fatto un'altra che da un punto di vista tecnico vale anche di più, perché è il confronto diretto con l'Atalanta. Sentiamo prima Alessandro da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno, vi ringrazio per la telefonata. Non volevo mischiare il sacro col profano, però tornando al discorso purtroppo di martedì, bisogna prendere atto che siamo in un momento di crisi del sistema e ognuno esprime in modo non condivisibile, in modo violento, in modo come può, delle idee che, ripeto, non sono condivisibili, però idee delle quali lui è convinto. E questo è un punto. Il secondo punto è il discorso della crisi del sistema calcio. Fino a 2 anni fa, in seconda categoria, un giocatore decente prendeva dai 300 ai 600 euro più o meno come rimborso spese e tutto. Oramai in prima categoria nessuno prende più niente. Quindi è proprio il calcio che sta cercando di autosostenersi, quando dovrebbe prendere atto di una fine di un ciclo, non voglio dire di un fallimento, però uno spunto per riprendersi, ecco. Questo sono i miei due punti. Queste sono due riflessioni interessanti. Mi sono dimenticato di un appunto che Nicola Filippone mi aveva lasciato, perché il 14 ottobre è anche il giorno in cui nel 68 a Città del Messico, alle Olimpiadi messicane, ho già detto ieri, furono tra le più belle di sempre, Jim Hines vinse la finale olimpica dei 100 con 9,95, che fu il nuovo privato mondiale, che avrebbe resistito poi fino al 3 luglio dell'83, quindi la bellezza di 25 anni, non un primato longevo come quello di Beamon nel lungo, ma insomma 25 anni prima che Calvin Smith lo abbassasse a 9,93. Vi dicevo della squadra rivelazione. Beh, abbiamo sentito l'allenatore Tesser due o tre giorni fa spiegarci perché questo Novara, sia pure con tutti gli scongiuri di rito. Adesso sentiamo il perché del presidente a Cornero. La serata è cominciata per me tornavo in macchina da Milano e a un certo punto ho alzato gli occhi e sul display luminoso dell'autostrada c'era scritto: uscita per lo stadio Novara Est. Allora ho cominciato a capire che qui sta succedendo qualcosa di straordinario. La serata finisce con un foglio che io ho in mano su cui c'è scritto che qui c'erano 9.400 spettatori. Queste due cose dell'inizio e della fine della serata danno l'idea della nostra situazione attuale. Questa squadra continua a stupire, ma in realtà no, non deve essere stupore, perché questo è solo il risultato di tanto lavoro. Abbiamo finito la partita 2-0 contro l'Atalanta e non so se avete notato i giocatori che sono stati fermi, che hanno cominciato a fare l'allenamento dopo la partita. Queste sono le piccole cose che stanno succedendo qui intorno. Novara secondo in Novara neopromosso in Serie B dopo decenni e secondo in classifica alle spalle del Siena, ma con un discreto vantaggio, mi pare 2 punti sulla terza che è la Regina e poi un vantaggio più netto sul, diciamo, sul gruppo. Davide ha chiamato da Venezia, buongiorno. Ah, buongiorno, senta, guardi, io sto per dire una cosa abbastanza pesante. Sì. E praticamente il generale Arcan, quello famoso, aveva gli stessi trascorsi di questo signor Ivan che abbiamo visto l'altra sera. Allora, cioè, se queste persone non sono recuperabili, cioè, io ve lo dico sinceramente, esiste anche la lobotomia? Sì, sì, sì. Cioè, se ne sacrifichiamo uno per salvarne migliaia, direi, no? Sì, non fa parte molto dei principi umanitari principali, no? Questo perlomeno dei più praticati nella nostra epoca. Certamente loro agirebbero così, gli Arcan e Arcan sicuro, questo non lo so, perché questo mi sembra più un orso yogi da esibire nelle fiere oppure nelle grandi rassegne. Loro ragionerebbero come lei, su questo non c'è dubbio. Non so se dalla parte opposta, dove io credo si debbano schierare le persone civili, sia lecito ragionare alla stessa maniera. Dal mio punto di vista certamente no. Grazie comunque anche del suo intervento, grazie a Fabio Cantadori in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio. A tempo di sport.